ragazzi, The Wonderful Brothers. Pappaglione alla tromba, un applauso. Allora, se voi volete cantare con noi, ce ne possiamo cantare. Vorremmo farvi un applauso, noi a voi. Bella lì. Ehi, abbiamo detto noi a voi. Come no? Yeah! sì, sì, di più, sì, sì, fino a domani, sì, sì, ancora 20, sì, sì, yeah, sì, sì, mentre sa che è già provvisorio, amore che c'è, sì, ma forse no, no, no, scherzavo, queste sono situazioni di contrabbando, meglio star qui seduti a guardare i Blue Beatles insieme a me, Messico e nuvole. Stai annoiando? C'è una ragazza qui che mi si sta addormentando, portate qualcosa da bere per quest'anima innocente. Tutto a posto? T'hanno schiacciato i piedi? Ti stiamo dando fastidio. Una gomitata nel fegato? Ce ne andiamo se vuoi. Una ginocchiata nel naso? Una gomitata? Un clinch? Un calcio? Un calcio girato? Ehi ragazzi, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piangere, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piangere. Fermi tutti, più veloce, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, soffia la sua armonica, che voglia di piangere, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, dimentico, soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Ancora un giro, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, dimentico, soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Ancora più veloce, senza farsi male, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piacere, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piacere. Cosa dobbiamo fare? Basta, ancora uno. Non lo so ragazzi, sentiamo Cato, io faccio quello che dice lui stasera. Ancora uno ragazzi. Ancora uno? Zorro che dici? Zorro ha detto che ancora una la possiamo fare. Allora se l'ha detto Zorro, che è un gran faticatore, la possiamo anche fare. Non ti sbattere troppo. Zorro Silvestri, un applauso! Yeah! Che stasera si è anche vestito in una maniera umana, grazie. Stasera è molto elegante. Stasera sei veramente impeccabile. Niente da dire, l'accostamento cromatico è perfetto. Ci sono i soldi? Hai fatto la grana? Il disco nuovo? Hanno cacciato? Vabbè, poi ne parliamo. Che andiamo? Vogliamo andare? Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piacere. Adesso basta. Cosa? C'è il trucco? L'ultimissimo? Poi basta però, ha rotto i coglioni. Ancora, quelli là vogliono ancora. Andiamo, andiamo, vabbè, dai, l'ultimo, l'ultimo. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Arrivederci, Roma.